Se abbiamo cure, leggo da Garattini, contro leucemie, contro il diabete, contro certi tumori, se le abbiamo è perché abbiamo fatto e facciamo la sperimentazione sugli animali. Guardi, io non, appunto, non sono una specialista, non posso dire approfondire, però ho sentito degli scienziati dire che moltissime di queste sperimentazioni sono inutili e poi soprattutto sono inutili perché riguardano anche, per esempio, ragioni che riguardano il campo dei cosmetici, per esempio. Quello non, eppure c'è un enorme, pensi che ci sono 12 milioni di animali da sperimentazione. Questo sono cose che dicono gli specialisti, non lo dico io. 12 milioni di animali che noi teniamo lì a soffrire e non sono tutti topolini e ratti, ma sono anche animali molto più grandi, molto più vicini all'uomo, che hanno una sensibilità molto più vicina all'uomo. Mi sembra un po' grottesco dire che la povera scimmia dice è stato contento perché gli ha allungato la vita. Questo veramente mi sembra paradossale. La sofferenza che comporta un animale tenuto in gabbia, tenuto sotto osservazione, su cui anche se non lo si taglia, poi sulle parole, sì, non possiamo anche discutere sulle parole, vivisezione o non vivisezione. Non è questa. Dice c'è già la sofferenza di un animale che sta lì invece di stare dove vorrebbe stare, nel suo ambiente naturale. Ma gli vengono inoculate delle malattie per poi trovare la cura. Scusi, questo perché non lo facciamo sugli uomini? Perché non lo facciamo sugli uomini? Perché sarebbe una sofferenza terribile. Beh, la sperimentazione di un farmaco passa anche attraverso una sperimentazione. È volontaria. È volontaria. Comunque l'animale non è volontario.